Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Uno speciale del cacciatore di libri dedicato al premio Campiello, che è stato assegnato la scorsa settimana a Venezia. Premio Campiello che è stato vinto a sorpresa dal giovane Giorgio Fontana, autore di Morte di un uomo felice, pubblicato da Sellerio. Dico a sorpresa perché fra i 5 finalisti era presente anche Mauro Corona, sicuramente il nome più noto, lo scrittore più noto fra i 5. Ma la giuria popolare del Campiello, insomma, ha spesso riservato delle sorprese, come quest'anno, e ha preferito dunque il libro di Giorgio Fontana a quello di Mauro Corona, ma anche a quello degli altri finalisti. Allora, andiamo per ordine. Giorgio Fontana dunque ha vinto il premio Super Campiello con 107 preferenze su circa 300 voti, che sono quelli appunto della giuria popolare. Al secondo posto Michele Mari, 74 voti, con il romanzo Roderick Dadol, pubblicato da Einaudi. Al terzo posto Mauro Corona, La voce degli uomini freddi, pubblicato da Mondadori, 43 voti, quindi circa meno della metà del vincitore. Al quarto posto Giorgio Falco con La gemella H, pubblicato da Einaudi, e infine Fausta Gavravini con Le vite di Monsù Desiderio, pubblicato da Bompiani. In questa puntata speciale dedichiamo naturalmente grande spazio al libro che si è aggiudicato appunto il premio Campiello. Sentiremo ovviamente anche gli altri 4 finalisti, ma li risentiremo nelle prossime settimane in interviste più estese dedicate appunto ai loro romanzi. Partiamo dunque da Giorgio Fontana, Morte di un uomo felice. Questo è un romanzo ambientato nel 1981 a Milano. Protagonista è un magistrato, Giacomo Colnaghi, che indaga sul terrorismo. La particolarità è che quest'uomo vuole comprendere le ragioni profonde dei terroristi, vuole capire perché sono arrivati all'estremismo. E questo romanzo è una lunga riflessione appunto di quest'uomo sui fatti che lo circondano, ma è anche un ricordo del padre, che era stato appunto un partigiano e che era morto durante un'azione partigiana. Questo rapporto padre-figlio è sullo sfondo di tutto il romanzo. Ma perché uno scrittore che è nato nel 1981 ha deciso di raccontare quegli anni che poi non ha vissuto, quegli anni appunto del terrorismo e della lotta al terrorismo? Sentiamo Giorgio Fontana. L'origine del romanzo in verità giace appunto nel romanzo precedente. Per legge superiore Giacomo Colnaghi, il protagonista di Morte di un uomo felice, era un personaggio secondario a livello narrativo, ma centrale a livello ideale, ideologico, una brutta parola quando si tratta di romanzi, ma insomma che a livello insomma di anima del libro. E quando ho terminato di scrivere per legge superiore ricordo che non riuscivo a togliermi dalla testa quest'altro magistrato, e quindi un po' malincuore, perché di magistrati ne avevo veramente piene le scatole, mi sono accinto a usare l'unica maniera con cui si può togliersi di mezzo un personaggio, cioè raccontarne la storia. E non ne sapevo molto di più di quello che si studia o insomma per informazione minimale di quel periodo, quindi mi sono tuffato in una ricerca approfondita e sono rimasto basito dalla complessità e dalla varietà di esperienze che hanno attraversato quel decennio all'incirca in Italia. Tu ovviamente non hai memoria appunto di quel periodo, non so, penso al rapimento, all'omicidio Moro, penso ai tanti uomini gambizzati, ai rapimenti, insomma agli omicidi di quel periodo. Da giovane, da veramente giovane scrittore, non è un modo di dire in questo caso, che idea ti sei fatto proprio dell'atmosfera di quel periodo, di chi l'ha vissuta seppure come spettatore e leggendo il tuo libro si ritrova in pieno? Ma allora, innanzitutto ho cercato, quello che mi sono accorto in fase di ricerca e di stesura era che l'espressione anni di piombo, ad esempio, è molto limitante, molto un'etichetta sbagliata per tanti versi. A me piace molto una frase, un'espressione di Gaber, in una canzone che dice anni affollati, ed è vero, erano anni molto affollati di ideologie contrapposte, affollati di tante esperienze anche estremamente positive, tante lotte sociali, il referendum sul divorzio, sull'aborto e così via, e ahimè anche di parecchio sangue e parecchio dolore. Quindi quello che volevo fare, poi naturalmente quello che dovrebbe fare un narratore è arrivare fino a un certo punto nel delirio della ricostruzione storica esatta, altrimenti scrive un libro di storia oppure un trattato di sociologia. Un narratore deve innanzitutto badare alla psicologia dei personaggi, badare ai personaggi stessi e alla lingua con cui li plasma. Quindi a un certo punto mi sono fermato, quasi mi sono dovuto arrestare perché la preoccupazione era quella di non saperne mai abbastanza nel ricostruire questo periodo così veramente complesso in tutte le sue sfumature. Nel dettaglio ovviamente poi ho scelto di raccontare una delle tante storie, questo ha creato un imbuto per tanti versi e comunque anche solo quella singola storia era parecchio complicata, quindi diciamo che di tutti i miei libri è quello che mi ha costato più fatica in assoluto, però è anche stato quello più interessante da scrivere per molti versi. Colnaghi non è un uomo contro, non è un magistrato ribelle, sembra apparentemente un uomo semplice che fa parte del sistema, è un cattolico praticante, sta appunto nel sistema, non lo combatte, combatte il terrorismo. È strana, insolita un po' questa figura. In genere quando gli scrittori devono descrivere un magistrato, ora non voglio parlare del classico commissario e così via, però in genere danno delle connotazioni più ribelli, appunto, rivoluzionarie. Nel tuo caso invece hai scelto un uomo normale, perché? Sì, innanzitutto perché il periodo storico era praticamente impossibile trovare magistrati rivoluzionari, anche perché erano sotto tiro letteralmente, quindi in un modo o nell'altro dovevano, a meno di non rinunciare a quello che facevano, se credevano in quello che facevano, dovevano difendere il sistema in cui lavoravano. Il che non significa accettarlo in toto, che è una cosa che Colnaghi non fa, come non facevano i migliori giudici dell'epoca. Anzi, proprio i migliori venivano uccisi proprio per questa loro qualità di saper riconoscere le contraddizioni del sistema e illuminarne i difetti. Quindi nell'ottica della lotta armatista era proprio il bersaglio migliore, era il nemico peggiore, perché nascondeva il volto autoritario dello Stato in questa logica perversa di contrapposizione reciproca. Quindi Colnaghi è senz'altro un uomo di Stato, un uomo di giustizia, ma è un uomo che cerca una giustizia giusta, è un uomo che si fa mille domande sulla sua responsabilità lavorativa, su quello che sono i limiti anche del suo mestiere, e probabilmente in questo è spinto molto dalla sua sensibilità cattolica, appunto un altro elemento cruciale nel romanzo. Il tema del non giudicare e del lavorare come giudice credo che sia abbastanza esplicativo di per sé. In effetti se poi lo guardiamo nella fenomenologia dei personaggi giudiziari italiani può sembrare un po' distante dal cliché del commissario, appunto, come dicevi tu, il commissario antisistema, oppure del piacione o di tutte così. In effetti è abbastanza un uomo semplice, ma io volevo ritrarre un uomo semplice, volevo ritrarre la storia semplice a modo suo di un uomo semplice, che però in verità in questa apparente semplicità si rivela infinitamente contraddittorio, perché porta con sé tantissime anime diverse che molto spesso confliggono e che lo rendono sì un uomo felice, ma anche un uomo non facile, ecco. Un uomo non facile e anche un uomo profondamente turbato da quello che accade intorno a lui. Abbiamo visto un uomo cattolico, un uomo che crede, però è anche un uomo che vuole immedesimarsi non solo nelle vittime, quindi condividere il dolore dei familiari, ma vuole capire perché i terroristi agiscono in un determinato modo. Sembra quasi che voglia, come dire, creare un ponte con loro. Insomma, lui si sforza di capire, viene quasi anche preso in giro dai suoi amici, dai suoi colleghi, perché lui si ostina a voler capire le ragioni del terrorismo. Perché crede che sia l'unico modo per esaurirlo, invece di continuare una guerra di posizione che in quegli anni in particolare, penso ai primissimi anni '80, sembrava trascinarsi ormai da tanti anni e non portare davvero da nessuna parte. Io avevo in mente le parole che Pertini rivolse a un giovane Walter Tobagi quando gli disse che il terrorismo non si combatte solo con le armi, anzi principalmente si combatte rendendo la società più giusta, che è il pensiero che un po' anima tutto questo libro. Quindi il passo che fa Colnaghi è quello di evitare di pensare l'alterità come qualcosa di irriducibile alle sue ragioni, per cui dice: se un ragazzo di 20 anni ha preso le armi, si è messo ad ammazzare dei miei colleghi o un giornalista o un, non so, un poliziotto o chiunque altro, e lo fa pensando di arrivare con questo a una società più giusta, l'unico modo sincero e reale che posso fare per fermare questa follia sanguinaria è innanzitutto di capirne le ragioni sottostanti. E di nuovo cito volentieri questa volta Walter Tobagi, non il presidente Pertini, quando diceva della risaia da prosciugare, cioè una volta che elimini il brodo di coltura che crea queste derive, si svuota da sé il senso della necessità del di questa eversione così violenta, così, che poi in quel periodo si era veramente avvitata su se stessa fino al delirio puro e semplice, quindi si arrivava a delitti assolutamente ingiustificati anche da un punto di vista ideologico, non che questo li renda meno orribili. Naturalmente questo è anche un passo rischioso per un magistrato, perché può essere tacciato quasi di collaborazionismo, cioè i tempi delle toghe rosse non erano ancora quelli a cui siamo stati abituati in seguito, però sì, cioè insomma, una specie di sottile connivenza o di morbidezza eccessiva in un momento in cui lo Stato invece dovrebbe essere mostrare il pugno duro. In questo romanzo ci sono a un certo punto dei flashback sul passato, cioè sul padre di Giacomo Colnaghi, Ernesto, che è morto durante un'azione partigiana e per questo insomma viene in qualche modo messo da parte dalla sua famiglia. In che modo questo episodio, la morte del padre in un'azione partigiana, influenza la vita di Colnaghi? Qua ho voluto mettere nei guai in un certo senso il mio protagonista, perché lui, che è cattolico, democristiano, anche se uno della democrazia, diciamo, un cattolico del dissenso, come si chiamavano all'epoca, si ritrova con un padre morto, giovane, in un'azione partigiana comunista, osteggiato da tutta la famiglia, letteralmente rimosso, quindi non considerato come un eroe ma come un individuo che è uno scavezzacollo, ecco, che ha lasciato da sola la moglie con i due figli, si ritrova da adulto a combattere, a dover lottare contro una forma avversiva che si diceva di ispirarsi in qualche modo alla lotta partigiana. Quindi questo lo getta in una sorta di sconforto, di contraddizione, di necessità di ripensare continuamente alla figura del padre come in verità fonte di ispirazione per quello che lui ritiene il modo per lottare per una società più giusta. Quindi non arrendersi, pensare ai più umili, ma neanche ricorrere a dei mezzi da tutto e subito in qualche modo. Quindi c'è questo continuo dialogo a distanza tra il padre e il figlio, che secondo me è il nodo vero poi del romanzo. Cioè, questo libro è stato anche chiamato in tanti modi un romanzo giudiziario, un romanzo sulla giustizia, un romanzo storico, un romanzo sul terrorismo. Secondo me è la storia di un padre e un figlio. Io uso spesso l'espressione romanzo da camera, volevo scrivere un romanzo a camera, veramente con pochi strumenti, molto privato, molto intimo, soprattutto in raccontando due periodi, la mia sfida era quella, raccontare due periodi della storia italiana così densi, così caldi come la Resistenza e gli anni affollati, come li abbiamo chiamati prima, usando dei mezzi assolutamente piccoli, quindi una storia veramente da interni, come ci sono molti interni in questo romanzo, interni di case, di stanze, di dialoghi, veramente un romanzo che doveva essere innanzitutto esistenziale. E poi, solo poi, affrescare due periodi, ma molto dopo. E questo era Giorgio Fontana con Morte di un uomo felice, il libro che si è aggiudicato il Supercampiello 2014, pubblicato da Sellerio. Al secondo posto, dicevamo, è arrivato Michele Mari, con il romanzo Roderick Duddle, pubblicato da Einaudi. Ora, riassumere in poche parole la trama di questo romanzo sarebbe veramente impossibile. Vi possiamo solo dire che il protagonista è un ragazzino, orfano, che è in possesso di un medaglione. Attraverso questo medaglione potrebbe essere riconosciuto come l'erede universale di una fortuna e per questo insomma diversi malviventi gli danno la caccia. Naturalmente ho semplificato molto, ma da come avrete potuto immaginare si tratta veramente di un romanzo d'avventura. La parola a Michele Mari. La trama si spiega in modo molto, molto esteso e molto arioso e procede per continue complicazioni sul modello del romanzo d'appendice, che essendo legato alle puntate, allo spazio delle singole testate che contenevano appunto la singola puntata, doveva compensare l'interruzione con un incremento di suspense, di interesse, quindi rilanciare continuamente, alzare la posta, complicare, aggiungere nuovi ostacoli, nuovi problemi, nuovi personaggi. Nella narrazione lei si rivolge direttamente al lettore, cioè addirittura a un punto in cui fa un breve riepilogo, come si fa appunto nelle soap opera, per esempio, sì. Dice nelle puntate precedenti, sì. Perché effettivamente la trama a un certo punto si ingarbuglia. Perché ha deciso così di rompere questa parete, di avere questo stile? Ma innanzitutto non ho inventato nulla, ho ripreso i modi del romanzo, soprattutto settecentesco, che creano non solo una sorta di complicità tra l'autore e il suo lettore, ma raffreddano anche un po' la temperatura del racconto, no? In quanto creano uno straniamento, infrangono l'illusione e di colpo riportano il lettore di fronte alla figura non dei personaggi ma dell'autore. E probabilmente credo che sia stata una scelta istintiva a correttivo parziale di quello che sentivo come un pericolo insito nel tema patetico del ragazzino. E quindi ho assunto, proprio per profilassi emotiva, per una sorta anche di igiene stilistica, questo continuo chiacchiericcio dello scrittore sul suo lavoro e nei confronti del lettore. Michele Mari, passiamo al terzo classificato del Campiello, ossia Mauro Corona, con La voce degli uomini freddi, pubblicato da Mondadori. Dicevamo che Corona era sicuramente il nome più noto fra questi cinque finalisti, si pensava ad una vittoria annunciata. E invece, appunto, Corona è arrivato solo terzo. Questo è un romanzo che potremmo definire bianco, proprio come il colore, perché è un romanzo dove la neve la fa da padrone. Anzi, il colore è bianco, possiamo dire, perché racconta la storia di una piccola comunità che vive in montagna nel corso dei secoli e il paesaggio è completamente bianco. Bianca è la neve, appunto, che cade sia d'inverno che d'estate. Bianchi sono i visi pallidi delle persone che abitano in questo luogo. Addirittura bianche sono diventate le api, scrive Corona in questo romanzo. E allora partiamo da questo elemento, da questo bianco che invade tutto il romanzo. E per salvare un qualcosa ancora di pulito, di incontaminato, questa mi piace questa domanda che mi ha fatto, perché non l'ha notato nessuno. C'è un motivo di quel bianco, c'è questo cercare ancora un qualcosa di pulito, che abbia candore, che abbia la luminosità del bianco. E quindi potevo anche inventare la pioggia al posto della neve, oppure il vento come faceva Juan Rulfo, invece ho messo il bianco, come per dire che lassù, prima che fossero arrivati quelli, c'era ancora questo, diciamo, questa leggerezza del pudore, dell'innocenza, anche se avevano le loro beghe, mi piace questa bella osservazione. È un posto di montagna, è un posto di cui lei racconta, insomma, la vita, il passare del tempo, è un posto dove gli uomini e le donne hanno un grande coraggio ad affrontare la vita, cioè sono persone che non si arrendono di fronte anche alla difficoltà della natura e decidono di voler restare lì. Perché? Soprattutto non si arrendono, soprattutto non si lamentano, perché sono nati lì, le loro origini, le loro radici, è una metafora anche per il luogo d'origine, l'infanzia. Io sono rimasto nel mio paese, a parte che poi questo racconto tra le righe non è altro che la storia della mia gente, del mio popolo ertano, non quello di oggi che ormai è armato di web e internet e i phone e i fa, quello di quei secoli, di quegli anni, fino a un 100 anni fa, anche 50 dopo il Vajont. Quindi è la storia di quella gente, rimaneva lì senza lamentarsi, e siccome lì non avevano nulla, come a quei tempi, tiravano fuori tutto con l'opera del cervello e delle mani, e dalla natura, e vivevano tranquilli. La neve, la natura, la potenza di questa montagna li abbracciava e li teneva da conto. Lei, insomma, ha la fama di essere un ribelle, fra virgolette, insomma, uno sì. che non è inserito nel sistema, mettiamola così. Come mai ha deciso di accettare la candidatura a un premio letterario? Perché io ho avuto una vita infelice. Non ho potuto andare a scuola, che mio padre mi ha massacrato, ha quasi ucciso mia madre di botte finché ha dovuto separarsi, siamo cresciuti orfani di genitori viventi. Non ho potuto andare a scuola, ho letto molto perché avevo la passione ereditata dal DNA di mia madre, ho letto Camion, due tir di libri, e quindi trovarmi a un premio letterario di prestigio è un riscatto della mia esistenza. Del passaggio all'alcolismo, dell'alcolismo, dei fallimenti, delle risse, di una famiglia a cui voglio bene, i figli adulti ormai laureati, che li ho fatti laureare col mio lavoro. E quindi in questo panorama difficilissimo dove comandano i baroni, gli intellettuali con la puzza sotto il naso, quelli incravattati e cose, io sono stato deflagrato, una mina in questo panorama qui, non mi hanno sopportato. E non mi sopportano tuttora. E allora questa è stata la mia piccola rivincita di vanità, ovviamente. C'è la vanità assolutamente. Ma un finalista al Campiello, un intellettuale di Torino, di Roma, di Napoli, di Milano, è diverso che uno di Erto, col mio passato. E questo è il mio riscatto. Dall'alcolismo, dai fallimenti, da processi per bracconaggio, ubriachezza molesta. Io sono uscito con le mie mani, senza studiare. E allora perché no? Un premio letterario. Questo era Mauro Corona, la voce degli Uomini Freddi, Mondadori, che naturalmente risentiremo nelle prossime puntate del Cacciatore di Libri in versione più estesa. Quarto posto al Campiello 2014 per Giorgio Falco con La Gemella H, pubblicato anche questo da Einaudi. Racconta la storia della famiglia Hinner, originaria appunto della Germania, poi si trasferisce in Italia. Siamo, diciamo, nel periodo fra gli anni 30 e il 2000, si segue la storia di questa famiglia, quindi dal nazismo fino ai giorni nostri. La parola a Giorgio Falco. Dobbiamo chiederci se noi adesso sono passati tanti anni dall'epoca, ma neanche poi così tanti, e dobbiamo chiederci se quelle circostanze, ma anche nella nostra contemporaneità, capita insomma di fare delle piccole azioni, piccole atrocità quotidiane, no? Che spesso ci infliggiamo vicendevolmente nel doppio ruolo di vittima e carnefice in modo estremamente intercambiabile. E quindi Hinner stesso ama addirittura lo splendore di questa carrozzeria nera della macchina, appunto, della berlina dei vicini, no? Dei vicini, e farà di tutto, no? per conquistarla. E tuttavia questa ossessione per la merce, per l'affare immobiliare, ecco, no? Ci fa dire a un certo punto, leggendo il libro, almeno questo è l'augurio, ma io sto leggendo qualcosa che è ambientata negli anni 30, 40 e poi nel dopoguerra italiano, o stiamo parlando di oggi? E infine, al quinto posto al Campiello si è classificata Fausta Garavini, autrice di Le vite di Monsù Desiderio, pubblicato da Bompiani. È di fatto una biografia verosimile, diciamo, però in gran parte inventata, perché sono poche le prove storiche a riguardo, di Monsù Desiderio. Monsù Desiderio è lo pseudonimo che utilizzava un pittore francese nel 600 che aveva vissuto parte della sua vita anche in Italia, fra Roma e Napoli. Fausta Garavini ha ipotizzato la sua vita, la sua storia, attraverso guardando i quadri che lui ha dipinto. Sentiamo perché. Prima di tutto per necessità, dal momento che della biografia reale di questo pittore non si sa quasi nulla. Ma mi interessava molto proprio questo procedimento, perché siccome sono convinta che si dipinge e si scrive con quello che si vive, mi incuriosiva cercare di ricostruire una biografia attraverso i quadri. La prima volta che lei ha visto un quadro, che idea si è fatta di questo artista? Di una persona tormentata. Sicuramente, e di un temperamento saturnino, e anche questo mi interessava. E anche per questa edizione speciale del Cacciatore di Libri, dedicato al Premio Campiello, è tutto. Grazie in regia Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate questa puntata in podcast, mi trovate su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.